Bianca, io e te, 3 metri sopra il cielo. Io su una mongolfiera, tu in viaggio verso il suolo. Greta, tu e Gina, 3 metri sottoterra. Due zitelle vergini mimetiche da guerra. Gianna e Caterina, 3 metri sopra il ciglio della riva, legate ad un lucchetto appese sotto a Ponte Milvio. Sara, tu e Stefania, 3 metri sotto il mare, come 2 sirene senza pinne che non possono nuotare. Scusa, scusa, scusa, amore mio, amore. scusa le mie scuse. Amore mio, amore, scusa se non c'ho più scuse. Amore mio, amore, scusa, scusa, scusa. Amore